Ad alta voce, Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Risalendo le scale, Andrea pensava: alfine ella si converte. Gli rimaneva nel capo quasi un vapore d'ebbrezza. Gli rimaneva nella bocca il gusto del bacio. Gli rimaneva nella pupilla il balen del sorriso con cui Elena gli aveva gettato al collo quella specie di serpe rilucente e aulente. E Donna Maria? Egli, certo, doveva alla senese l'inaspettata voluttà. Senza alcun dubbio, in fondo all'atto strano e fantastico di Elena, era un principio di gelosia. Temendo forse che egli le sfuggisse, ella aveva voluto legarlo, adescarlo, accendergli di nuovo la sete. Mi ama? Non mi ama? E che importava a lui saperlo? Che gli giovava? Ormai l'incanto era rotto. Nessun prodigio mai avrebbe potuto resuscitare solo una minima parte della felicità morta. Conveniva a lui occuparsi della carne, che era ancora divina. Si compiacque a lungo nel considerar l'avventura. Si compiacque in specie della maniera elegante e singolare con cui Elena aveva saputo dar sapore al capriccio. E l'immagine del boa suscitò l'immagine della treccia di Donna Maria. Suscitò in confuso tutti gli amorosi sogni da lui sognati intorno a quella vasta capellatura. Di nuovo egli mescolò i due desideri, vagheggiò la duplicità del godimento, travide la terza amante ideale. Vestendosi per il pranzo ripensava. Ieri una grande scena di passione, quasi con lacrime. Oggi una piccola scena muta di sensualità. E a me pareva ieri d'essere sincero nel sentimento, come io era sincero dianzi nella sensazione. Inoltre oggi stesso, un'ora prima del bacio d'Elena, io avevo avuto un alto momento lirico accanto a Donna Maria. Di tutto questo non rimane traccia. Domani certo ricomincerò. Io sono camaleontico, chimerico, incoerente, inconsistente. Qualunque mio sforzo verso l'unità riuscirà sempre vano. Bisogna ormai che io mi rassegni. La mia legge è in una parola. Nunc. Sia fatta la volontà della legge. Rise di se medesimo. E da quell'ora ebbe principio la nuova fase della sua miseria morale. Senza alcun riguardo, senza alcun ritegno, senza alcun rimorso, egli si diede tutto a porre in opera le sue immaginazioni malsane. Per trarre Maria Ferressa a cedergli, usò i più sottili artifici, i più delicati intrichi, illudendola appunto nelle cose dell'anima, nella spiritualità, nell'idealità, nell'intima vita del cuore. Per proseguire con egual prestezza nell'acquisto della nuova amante e nel riacquisto dell'antica, per profittar d'ogni circostanza nell'una e nell'altra impresa, egli andò incontro a una quantità di contrattempi, di impacci, di bizzarri casi, e ricorse per uscirne a una quantità di menzogne, di trovati, di ripieghi meschini, di sotterfugi degradanti, di bassi raggiri. La bontà, la fede, il candore di Donna Maria non lo soggiogavano. La povera creatura credeva di salvare un'anima, di redimere un'intelligenza, di purificare con la sua purità un uomo macchiato. Credeva ancor profondamente alle parole indimenticabili udite nel parco, in quella epifania dell'amore, al cospetto del mare, sotto gli alberi floridi. E questa fede, appunto, la ristorava e la sollevava in mezzo alle lotte cristiane che di continuo si combattevano nella sua coscienza, la liberava dal sospetto, la inebriava di una specie di misticismo voluttuoso in cui ella effondeva tesori di tenerezza, tutta l'onda raccolta dei suoi languori, il fior più dolce della sua vita. Per la prima volta, forse, Andrea Sperelli si trovava innanzi a una vera passione. Per la prima volta si trovava innanzi a uno di quei grandi sentimenti femminili rarissimi che illuminano d'un bello e terribile baleno il ciel grigio e mutevole degli amori umani. Egli stesso se ne curò, divenne lo spietato carnefice di se stesso e della povera creatura. E la vicenda continuò nei giorni venienti, con le medesime torture, con torture peggiori, con più crudeli menzogne. Per un fenomeno non raro nell'abiezione morale degli uomini d'intelletto, egli aveva ora una terribile lucidità di coscienza, una lucidità continua, senza più oscurazioni, senza più eclissi. Egli sapeva quel che faceva e giudicava poi quel che aveva fatto, e in lui il disprezzo di se stesso era pari all'ignavia della volontà. Ma le sue ineguaglianze, appunto, e le sue incertezze, e i suoi strani silenzi, e le sue strane effusioni, accrescevano, incitavano la passionata misericordia di Donna Maria. Ella lo vedeva soffrire, e ne provava dolore e tenerezza, e pensava: a poco io lo guarirò. E a poco, senza accorgersene, ella andava perdendo la forza e piegando verso il desiderio dell'inferno. Ella piegava dolcemente. Nel salone della contessa Starnina ebbe un indefinibile brivido quando sentì sulle sue spalle, sulle sue braccia scoperte, lo sguardo di Andrea. Per la prima volta Andrea la vedeva in abito da sera. Egli di lei conosceva soltanto il volto e le mani. Ora le spalle gli parvero di squisita forma, ed anche le braccia, sebbene forse un po' magre. Ella era vestita di un broccato color d'avorio, misto di zibellino. Una sottile striscia di zibellino correva intorno alla scollatura, dando alla carne una indescrivibile finezza, e la linea delle spalle, dall'appiccatura del collo agli omeri, cadeva giù alquanto. Aveva quella cadente grazia che è un segno d'aristocrazia fisica, divenuto ormai rarissimo. Sui capelli copiosi disposti in quella foggia che predilesse per i suoi busti il verrocchio, non splendeva né una gemma, né un fiore. In due o tre momenti opportuni, Andrea le mormorò parole d'ammirazione e di passione. «È la prima volta che noi ci vediamo nel mondo», le disse. «Vi darete un guanto per memoria?» «No». «Perché, Maria?» «No, no, tacete!» «Oh, le vostre mani! Vi ricordate quando a Schifanoia le disegnai? Mi pare che mi appartengano di diritto. Mi pare che voi dobbiate concedermene il possesso e che di tutto il vostro corpo siano le cose più intimamente animate dall'anima vostra, le più spiritualizzate, quasi direi le più pure, mani di bontà, mani di perdono. Come sarei felice! Vi posso cedere almeno un guanto, una larva, una parvenza della loro forma, una spoglia profumata dal loro profumo. Mi date un guanto prima di andarvene?» Ella non rispose più. Il colloquio fu interrotto. Dopo qualche tempo, pregata, ella sedé al pianoforte. Si tolse i guanti, li posò sul leggio. Le sue dita, fuori di quelle sottili guaine, apparvero bianchissime, lunghette, inanellate. Brillava di vivi fuochi sull'anulare sinistro un grande opale. Sonò le due sonate fantasia del Beethoven. Andrea sentì che in mezzo a quell'uditorio intento ella suonava sol per lui. Di tratto in tratto i suoi occhi dalle dita della sonatrice andavano ai lunghi guanti che pendevano di sulleggio, conservando l'impronta di quelle dita, conservando una inesprimibile grazia nella piccola apertura del polso ove dianzi appariva appena appena un po' della cute femminile. Donna Maria si levò, circondata d'elogi. Non riprese i guanti. S'allontanò. Invase allora Andrea la tentazione di involarli. Li aveva ella forse lasciati là per lui? Ma egli ne voleva uno solo. Come diceva finalmente un finto amatore, un par di guanti è tutt'altro che un guanto solo. Condotta di nuovo al pianoforte dall'insistenza della contessa Starnina, Donna Maria tolse dal leggio i guanti e li posò all'estremità della tastiera, nell'ombra dell'angolo. Quindi sonò la gavotta di Luigi Rameau, la gavotta delle dame gialle, l'indimenticabile danza antica del tedio e dell'amore. Certe dame biondette, non più giovini. Andrea la guardava fiso, con un po' di trepidazione. Quando ella si levò, prese un guanto solo, lasciò l'altro nell'ombra sulla tastiera per lui. Tre giorni dopo, essendo Roma attonita sotto la neve, Andrea trovò a casa questo biglietto. Martedì, ore 2 pomeridiane. Stasera dalle 11 a mezzanotte mi aspetterete in una carrozza dinanzi a Palazzo Barberini, fuori del cancello. Se a mezzanotte non sarò ancora apparsa, potrete andarvene. È Stranger. Il biglietto aveva un tono romanzesco e misterioso. In verità la marchesa di Mount Edgecumbe faceva troppo abuso di carrozze nell'esercizio dell'amore. Era forse per un ricordo del 25 marzo 1885? Voleva ella forse riprendere l'avventura nel modo medesimo in cui l'aveva interrotta? E perché quello Stranger? Andrea ne sorrise. E gli tornava allora allora da una visita a Donna Maria, da un'assai dolce visita, e il suo spirito inchinava più verso la senese che verso l'altra. Gli indugiava nell'orecchio le vaghe e gentili parole che la senese aveva dette, guardando insieme a lui attraverso i vetri cader la neve, mite come il fior del pesco o il fior del melo, in sugli alberi della villa Aldobrandini, già illusi da un presentimento di stagion novella. Alle 11 egli era dinanzi al Palazzo Barberini, e l'ansia e l'impazienza lo divoravano. La bizzarria del caso, lo spettacolo della notte nevale, il mistero, l'incertezza gli accendevano l'immaginazione, lo sollevavano dalla realtà. Splendeva su Roma, in quella memorabile notte di febbraio, un plenilunio favoloso di non mai veduto lume. L'aria pareva impregnata come di un latte immateriale. Tutte le cose parevano esistere d'un'esistenza di sogno. Parevano immagini impalpabili, come quelle di una meteora. Parevano essere visibili di lungi per un irradiamento chimerico delle loro forme. La neve copriva tutte le verghe dei cancelli, nascondeva il ferro, componeva un'opera di ricamo più leggera e più gracile di una filigrana che i colossi ammantati di bianco sostenevano, come le querci sostengono le tele dei ragni. Il giardino fioriva a similitudine di una selva immobile, di gigli enormi e difformi, congelato. Era un orto posseduto da una incantazione lunatica, un esanime paradiso di Selene. Muta, solenne, profonda, la casa dei Barberini occupava l'aria. Tutti i rilievi grandeggiavano candidissimi, gittando un'ombra cerulea, diafana come una luce. E quei candori e quelle ombre sovrapponevano alla vera architettura dell'edificio il fantasma di una prodigiosa architettura aliostea. Chino a riguardare l'aspettante sentiva sotto il fascino di quel miracolo che i fantasmi vagheggiati dell'amore si risollevavano. Ma egli non sapeva quale delle due donne avrebbe preferita in quello scenario fantastico. Se Elena Hatfield vestita di porpora o Maria Ferres vestita d'ermellino. E come il suo spirito piacevasi di indugiare nell'incertezza della preferenza, accadeva che nell'ansia dell'attesa si mescessero e confondessero stranamente due ansie, la reale per Elena, l'immaginaria per Maria. Un orologio suonò da presso, nel silenzio, con un suono chiaro e vibrante, e pareva come se qualche cosa di vitreo nell'aria si incrinasse a ognun dei tocchi. L'orologio della Trinità dei Monti rispose all'appello, rispose l'orologio del Quirinale, altri orologi di lungi risposero, fiochi. Erano le 11:15. Andrea guardò, aguzzando la vista, verso il portico. Avrebbe ella osato attraversare a piedi il giardino? Pensò alla figura di Elena tra il gran candore. Quella della senese rispose spontanea. Oscurò l'altra, vinse il candore. Candida, super nivem. La notte di luna e di neve era dunque sotto il dominio di Maria Ferres, come sotto una invincibile influenza astrale. Dalla sovrana purità delle cose nasceva l'immagine dell'amante pura, simbolicamente. La forza del simbolo soggiogava lo spirito del poeta. Allora, sempre guardando se l'altra venisse, egli si abbandonò al sogno che gli suggerivano le apparenze delle cose. Era un sogno poetico, quasi mistico. Egli aspettava Maria. Maria aveva eletta quella notte di soprannaturale bianchezza per immolar la sua propria bianchezza al desiderio di lui. Tutte le cose bianche intorno, consapevoli della grande immolazione, aspettavano per dire Ave ed Amen al passaggio della sorella. Il silenzio viveva. E l'altra non veniva. Nel silenzio e nella poesia cadevano di nuovo le ore degli uomini, scoccate dalle torri e dai campanili di Roma. Andrea pensò, se ella non venisse. Quella strana onda di lirismo passatagli sullo spirito nel nome di Maria aveva coperta l'ansietà dell'attesa, aveva placata l'impazienza, aveva ingannato il desiderio. Per un attimo il pensiero che ella non venisse gli sorrise, poi di nuovo più forte lo punse il tormento dell'incertezza e lo turbò l'immagine della voluttà che gli avrebbe forse goduta là dentro, in quella specie di piccola alcova tiepida dove le rose esalavano un profumo tanto molle, e gli si rammaricava che uno squisito apparato d'amore andasse perduto senza effetto alcuno. Là dentro il freddo era temperato dal calore continuo che esalavano i tubi di metallo pieni d'acqua bollente. Un fascio di rose bianche, nive e lunari posava sulla tavoletta dinanzi al sedile. Una pelle d'orso bianco teneva calde le ginocchia. E per la terza volta le ore suonarono. Mancavano a mezzanotte 15 minuti. L'aspettazione durava da troppo tempo. Andrea si stancava e si irritava. Nell'appartamento abitato da Elena, nelle finestre dell'ala sinistra, non vedevasi altro lume che quello esterno della luna. Sarebbe dunque venuta? E in che modo? Di nascosto? O con qual pretesto? Lord Heathfield era certo a Roma. Come avrebbe ella giustificata la sua assenza notturna? Di nuovo insorsero nell'animo dell'antico amante le acri curiosità intorno alle relazioni che correvano fra Elena e il marito, intorno ai loro legami coniugali, intorno al loro modo di vivere in comune nella medesima casa. Di nuovo la gelosia lo morse e la bramosia lo accese. Egli si ricordava delle allegre parole dette da Giulio Musellaro una sera a proposito del marito, e si proponeva di prendere Elena ad ogni costo, per il diletto e per il dispetto. Oh, se ella fosse venuta! Una carrozza sopraggiunse ed entrò nel giardino. Egli si chinò a guardare, riconobbe i cavalli d'Elena, intravide nell'interno una figura di dama, la carrozza disparve sotto il portico. Egli restò dubbioso, tornava dunque di fuori, sola, acuì lo sguardo verso il portico intensamente. La carrozza usciva per il giardino nella strada, imboccando la via Rasella. Era vuota. Mancavano 2 o 3 minuti all'ora estrema, ed ella non veniva. L'ora sonò. Una terribile angoscia strinse il deluso. Ella non veniva. Non comprendendo egli le cause della impuntualità di lei, le si rivolse contro. Ebbe un moto di collera subitaneo e gli balenò anche il pensiero che ella avesse voluto infliggergli un'umiliazione, un castigo, o che ella avesse voluto togliersi un capriccio, esasperare un desiderio. Ordinò al cocchiere per portavoce: «Piazza del Quirinale». egli si lasciava attrarre da Maria Ferres. Si abbandonava di nuovo al vago sentimento di tenerezza che dopo la visita pomeridiana gli aveva lasciato nell'anima un profumo e gli aveva suggerito pensieri e immagini di poesia. La delusione recente, che era per lui una prova del disamore e della malvagità di Elena, lo spingeva forte verso l'amore e la bontà della senese. Il rammarico per la bellissima notte perduta gli aumentava, ma sotto il riflesso del sogno, dianzi sognato. Ed era in verità una delle notti più belle che si è intrascorse nel cielo di Roma. La piazza del Quirinale appariva tutta candida, ampliata dal candore, solitaria, raggiante come un'acropoli olimpica, sull'urbe silenziosa. La carrozza rimase ferma dinanzi alla reggia, lungo tempo. Di nuovo il poeta seguiva il suo sogno inarrivabile. E Maria Ferres era vicina, forse anche vegliava sognando, forse anche sentiva gravare sul cuore tutta la grandezza della notte e ne moriva d'angoscia, inutilmente. La carrozza passò piano dinanzi alla porta di Maria Ferres, che era chiusa, mentre in alto i vetri delle finestre rispecchiavano il plenilunio, guardando gli orti pensili aldobrandini, ove gli alberi sorgevano, aerei prodigi, e il poeta gittò il fascio delle rose bianche sulla neve come un omaggio dinanzi alla porta di Maria Ferres. Ad alta voce. Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.